Ciao a tutti, è bello per me avere questo privilegio di stare insieme a voi, anche se virtualmente, e con l'idea di presto essere insieme a voi fisicamente, perché sapete che sia io che Elena abbiamo una certa dipendenza da voi. Oggi vorrei condividere con voi qualcosa dalle scritture e in particolare qualcosa che mi è molto vicino al mio cuore. Mandare e andare sono due dinamiche contenute nelle scritture che ci parlano proprio di missione, a cui tutti noi siamo in qualche modo chiamati. Ma vorrei proporvi una terza dinamica, altrettanto contenuta nelle scritture e che in qualche modo spiega la missione che io ho il privilegio di rappresentare, che è Porte Aperte. E questa terza dinamica è questa: c'è l'andare, c'è il mandare e c'è l'unire. Unire. Oggi vorrei quindi esplorare questa parte che credo sia essenziale della nostra chiamata missionale. Vorrei partire proprio da una storia, che è la storia che più spesso credo migliaia e migliaia sia di pastori che di missionari hanno più volte citato, ed è la storia di William Carey. Vorrei riportarci tutti a quella citazione importante che veramente ha fatto un po' la storia, ha ispirato moltissimi uomini e donne al campo missionario. Molti di noi la conoscono bene. È quel momento in cui William Carey stava per partire e Andrew Fuller scrisse poi in un resoconto quello che accadde, citando quelle parole importanti a cui mi riferisco. Vado a leggervi testualmente. La nostra impresa in India mi sembrò davvero al suo inizio un po' come se alcuni uomini stessero discutendo sull'importanza di entrare in una miniera profonda o in una grotta profonda, che non era mai stata esplorata prima. Non avevamo nessuno che ci guidasse e mentre stavamo decidendo, William Carey disse: «Bene, io andrò giù se voi terrete la corda. Io andrò giù se voi terrete la corda». Bellissimo. Come vi dicevo, è stata utilizzata da migliaia e migliaia di missionari e pastori per rendere bene l'importanza del mandare e dell'andare. Da una parte c'è il missionario che viene calato giù, William, che viene calato giù in questa grotta oscura che nessuno ha mai esplorato. Dall'altra parte c'è Andrew insieme agli altri fratelli che reggono con forza questa corda. Lo stesso Fuller spiegherà con altre parole quello che hanno vissuto questi ragazzi insieme, perché si tratta insomma di giovani uomini al tempo, spiegando bene la dinamica e l'importanza e l'unione che c'è tra chi va e chi invece manda. Leggo: «Ma prima di scendere in quella miniera, mi sembrava che William avesse fatto un giuramento a ciascuno di noi che finché avremmo vissuto non avremmo mai lasciato andare quella corda». Chiesa, questo è bellissimo, è un'immagine fantastica. Non lasciamo mai andare la corda dei nostri operai sul campo. È la nostra chiamata e va oltre noi per raggiungere l'estremità della terra. Bellissimo. Andare e mandare, due dinamiche cruciali per la salvezza delle anime non raggiunte, ma anche per la salute della Chiesa che manda, per entrambi i motivi. William, che con coraggio si cala giù nella grotta, nella miniera, nell'oscurità dove si trovano i non raggiunti, e Fuller e gli altri, la Chiesa cioè, che lo cala giù e lo sostiene in questa avventura. Ma chi è? Chi è la corda? O meglio, che cosa rappresenta la corda? Se c'è William che viene calato con questa corda e c'è Fuller che lo sostiene, chi rappresenta la corda? Ebbene, io credo che sia importante analizzare questo aspetto, perché proprio la corda rappresenta la terza dinamica di cui vorrei parlarvi, cioè l'unire. Unire i due attori che sono gli attori principali, senza dubbio William e Andrew e la Chiesa mandante con l'operaio. ma che ha un compito importante, questa corda, di tenerli uniti, di sorreggere il peso di questa unione e al tempo stesso di sorreggere anche il peso di questa unione dagli eventuali scossoni che inevitabilmente la chiamata e l'avventura missionaria avrà. Quindi chi è questa corda? Che cosa rappresenta? Se dovessi rappresentare Porte Aperte, la missione che guido, direi proprio che è questa corda. Biblicamente però dove la troviamo? Perché ci sono i mandanti e ci sono comunque i mandati. E che cosa fa questa corda? Questa corda in che modo unisce? Lo vedremo proprio attraverso un testo delle scritture che troviamo proprio nel Nuovo Testamento. Ma prima vorrei mostrarvi questa foto. Ebbene, questa foto rappresenta un viaggio missionario che ho fatto non molto tempo fa in Indonesia. Siamo in una delle tantissime isole dell'Indonesia dove c'è questa chiesa che vedete ed è un territorio particolarmente ostile al Vangelo, che sta in qualche modo incrementando la posizione al Vangelo proprio in questo periodo. Quindi cresce la persecuzione, spesso la Chiesa viene presa a sassate dai vicini, è l'unica, diciamo, rappresentanza cristiana in quell'area. I membri della Chiesa, in particolar modo il pastore, sono minacciati spesso di morte anche con delle lettere. Porte Aperte aiuta questa chiesa a rimanere in quel contesto e a, diciamo, a risplendere come la luce di Cristo in quelle oscurità, ma al tempo stesso sostiene gli evangelisti che stanno operando in quell'area, raggiungendo proprio dei musulmani e creando delle cellule di ex musulmani, quindi, che vengono discepolati grazie ai programmi che la missione prepara per loro. Quindi c'è una chiesa autoctona di MBB, cioè di ex musulmani, che sta nascendo a fianco e attorno in varie aree di quell'isola proprio da questa chiesa che è mandante. Ma dietro questa chiesa mandante c'è la missione Porte Aperte che la sostiene. Ebbene, in questa foto vedete questa coppia di giovani che sono il frutto di queste evangelizzazioni, cioè sono... Lei in particolare è un ex musulmana che ha perso tutto quando poi è arrivata a Cristo e ha manifestato la sua fede. Ebbene, in quel momento che viene immortalato dalla foto, sto pregando per loro insieme a tutta la Chiesa per mandarli, perché nel cuore di questi giovani sposi c'è quella di raggiungere un'altra isola totalmente islamica, dove non c'è una rappresentanza, dove non c'è una testimonianza del Vangelo per portarlo. Quindi noi in qualche modo li stiamo ulteriormente mandando. Bene, ecco, questo lavoro di connessione, questa unione che viene creata sin dall'Italia, sin da una parte di questo mondo all'altra, fino all'Indonesia, a quell'isola in particolare che manda quei giovani in un'altra isola dove ci sono non raggiunti, beh, questo lavoro lo fa la fune, lo fa la corda, lo fa proprio Porte Aperte. Credo che questa sia la rappresentazione migliore che potrei darvi di quello che è il lavoro della nostra missione. Ma nelle scritture troviamo proprio anche un perfetto personaggio, a mio avviso, che usiamo spesso all'interno di questa missione per rappresentare questa terza dinamica missionale. E il personaggio è Epafrodito, che nessuno conosce sostanzialmente, o perlomeno pochi, no? Non è decisamente un personaggio principale, ma rappresenta bene la dinamica dell'unire, che è un compito umile, ma è un compito vitale, è un compito molto importante. A volte è nascosto, spesso lo è nascosto, ma è necessario esserci proprio come corda, perché ci sia questo sostegno alla Chiesa sia nei luoghi più ostili sia nei luoghi meno ostili al Vangelo. Vi leggo direttamente dal secondo capitolo della lettera ai Filippesi, quello che Paolo scrive, e sono gli unici punti in cui troviamo nella Bibbia questo particolare personaggio. Capitolo 2 di Filippesi, dal versetto 25 al 30. Tuttavia, ho ritenuto necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni, poiché egli desiderava molto vedervi tutti ed era angosciato perché avevate udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato malato e molto vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Ve l'ho mandato perciò con tanta premura, perché vedendolo di nuovo vi possiate rallegrare e Dio stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Molto bello. Ecco, qui troviamo questo strano personaggio, ma qual è il contesto? Siamo nella chiesa di Filippi. Filippi è una città fiorente dell'impero romano, è una città molto romana rispetto a molte altre, e infatti è un centro nevralgico anche del mercato, dell'attività commerciale dell'impero in quell'area dell'impero. È proprio sita nella via Ignazia, una via principale, un'arteria principale del commercio dell'impero romano, un luogo strategico, perfetto per fondare una chiesa e diffondere il Vangelo. David Paulson afferma: dal resoconto di Luca sull'espansione della chiesa negli Atti degli Apostoli è evidente che Dio aveva destinato Filippi ad essere una colonia del paradiso. Una colonia del paradiso, dice. È bella, è una bella espressione. E dice questo perché sembra che questa chiesa di Filippi fosse quasi una chiesa ideale, non perfetta, ma con molti aspetti positivi, molto generosa, capace di sostenere sia in preghiera che con incoraggiamento, che con persone, che con doni il ministero di Paolo. Per questo la lettera di Paolo, uno degli argomenti principali che i teologi identificano nella lettera di Paolo è proprio la gioia, perché qui Paolo è come se parlasse un po' degli amici ed esprime incoraggiamento e gioia. E ricordiamocelo, perché Paolo la scrive, questa lettera, mentre si trova in carcere, agli arresti domiciliari, a Roma, con un futuro che definire incerto, è dir poco. Quindi c'è molta gioia. Paolo ama questa chiesa, li ringrazia per i doni e incoraggia tutti a vivere una vita dedicata alla santità, dedicata all'unità tra loro, e anche alla gioia, come vi dicevo. E qui troviamo questo strano apostolo. Non sono io a chiamarlo apostolo. Epafrodito è un apostolo perché così è definito da Paolo stesso. Avrete notato, forse alcuni l'avranno notato, che nelle proprie Bibbie non c'è la parola apostolo, nella Nuova Riveduta non la troviamo, ma nell'originale greco c'è proprio la parola apostolos, quando dice: ma ho stimato necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello e compagno d'opera e di milizia, e vostro apostolos. Cioè nell'originale c'è questa parola che significa mandato. Epafrodito sostanzialmente è qualcuno che viene inviato, mandato, da una chiesa all'altra con compiti specifici, nel suo caso traducibili con l'unire, perché non è mandato come Paolo a fondare la chiesa, ma è mandato a tenere unite le due chiese. Paolo, prima di chiamarlo apostolo, però lo chiama fratello. Lo chiama compagno di lotta, in altre versioni commilitone, cioè proprio c'è questa sensazione che vuole dare ed esprimere ai filippesi: guardate che questo è il mio fratello, ma è anche il mio compagno d'opera. È un apostolo mandato, ma è sangue del mio sangue, è parte della nostra famiglia in Cristo, con dei compiti essenziali. Vuole passare l'idea che Epafrodito è membro della Chiesa, che serve nella Chiesa per andare verso la Chiesa. Ed è esattamente quello che fa la missione che rappresento, Porte Aperte. Opera dalla Chiesa mandante, in Italia, alla Chiesa perseguitata e viceversa, creando questa unione tra queste due realtà. Come leader di questa missione di Porte Aperte, rifiuto categoricamente la definizione che viene data spesso alle agenzie come Porte Aperte, cioè quella di una entità para-ecclesiale, cioè qualcosa di fuori dalla Chiesa che si muove parallelamente alla Chiesa come se non la componesse. Porte Aperte non è para-ecclesia, Porte Aperte è ecclesia, Porte Aperte è Chiesa, ciascuno di noi fa parte della Chiesa, si muove nella Chiesa, per la Chiesa, attraverso la Chiesa. Gran parte dei nostri partner locali sono chiese, il fondamento della nostra opera è la chiesa locale, uomini e donne che servono nella chiesa per la chiesa. Gran parte dei membri della nostra missione sono cristiani perseguitati che servono gli altri cristiani perseguitati, e se non sono perseguitati come il sottoscritto, anche se a volte pensando a mia moglie qualche idea mi viene in mente, anche se non sono perseguitato, io servo nella Chiesa e per la Chiesa, muovendomi attraverso la Chiesa. Quindi perdonatemi questo sottolineare, evidenziare questo aspetto, perché è importante, perché ci fa capire come scritturalmente Porte Aperte rappresenti Epafrodito, o meglio Epafrodito rappresenti tutte le agenzie di questo tipo che si muovono nel campo missionario. Dunque questa agenzia è Timoteo, è Epafrodito, è Paolo e molti altri sconosciuti chiamati ad unire in qualche modo la Chiesa. È come un sistema nervoso che passa informazioni da una parte all'altra del corpo, è come un sistema sanguigno che porta sangue e nutrienti per il corpo di Cristo. Allo stesso modo, qui in questo passo biblico, le scritture ci ricordano che Epafrodito portava degli aiuti, portava degli incoraggiamenti, portava delle preghiere, portava dei soggetti, delle storie che arrivavano sia da Paolo sia dalla chiesa di Filippi, e creava questa sana unione che una corda può fare. Inoltre portava questa thank you letter, perché di fatto è una lettera di ringraziamento, la lettera ai Filippesi, che ispira oggi, fino ad oggi, la nostra vita, perché tradizionalmente proprio Epafrodito viene considerato il latore di questa lettera, cioè colui che si è preso la briga in quei tempi difficili di prendersi la lettera, custodirla insieme agli aiuti e portarla in quei territori pericolosi che erano quei tempi, quindi muoversi in quelle aree. E che cosa portava? L'ho detto, portava ispirazione, portava incoraggiamento, portava degli insegnamenti, gli insegnamenti che stiamo studiando noi oggigiorno. Quindi come un sistema nervoso, come un sistema sanguigno. E soprattutto che cosa portava? Portava presenza, perché Epafrodito era presente per i filippesi ed era presente anche per Paolo in momenti di bisogno, per mostrare la vicinanza, a volte per non dire niente, perché sia poco da dire magari nei momenti difficili o nelle tragedie che per esempio vive la Chiesa perseguitata, ma esserci è proprio vitale, la presenza che fa vivere tanto alla Chiesa mandante quanto al Paolo la verità teologica detta dallo stesso Paolo, che se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Un altro verso che è molto caro alla nostra missione. Ebbene, ecco qua, Epafrodito che viene chiamato a unire la Chiesa per far provare anche queste verità teologiche. Come possiamo viverlo se non c'è chi crea questa unione, che porta queste informazioni, che mi dice se sta bene o non sta bene mio fratello, se è onorata o non lo è mia sorella? Come posso gioire con la parte del corpo di Cristo dall'altra parte del mondo se non c'è chi ha questo compito vitale di creare questa unione? Ebbene, questo compito è necessario ed è voluto ed è, diciamo, vissuto dalla corda che tiene unita il missionario, l'operaio e la chiesa mandante. Ecco, questa è proprio la fotografia della dinamica di cui volevo parlarvi, cioè l'unire. Epafrodito venne inviato dai Filippesi a Paolo per consegnare dei doni, per consegnare del denaro sostanzialmente, per sostenere il ministero di Paolo. E Paolo a dirlo, quando dice inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità, o al versetto 30 dice per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Paolo sostanzialmente descrive l'evidenza, parla dell'ovvietà, dice è chiaro che non può partire tutta la chiesa e venirmi a trovare, però voi avete inviato a mio fratello a sostenermi, avete creato questa fune che ci tiene uniti, e questa fune si chiama Epafrodito. Ed è di questo che parla esattamente in questo passaggio, ma anche nell'altro passaggio che non abbiamo letto, leggiamo ora, l'unico altro punto in cui si rivela questo allegro sconosciuto che è Epafrodito. Al capitolo 4, al versetto 18 dice: ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza, dice Paolo, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. È il suo grazie alla Chiesa di Filippi, perché la Chiesa di Filippi ha inviato degli aiuti, ma è stato Epafrodito a portarli. La Chiesa locale non può dunque muoversi interamente, ha bisogno di qualcuno di fiducia che lo faccia al posto suo, e questo è Epafrodito, questo è Porte Aperte. In molti dei paesi dove lavora questa come altre missioni c'è opposizione al Vangelo, c'è persecuzione. Muoversi in quei contesti è necessario saperli conoscere bene, creare delle competenze, delle conoscenze che ti rendano possibile il muoverti in quei contesti, e quindi creare delle reti di uomini e donne che servano con passione e rischino la vita per il bene della Chiesa e per far crescere la luce di Cristo in quei luoghi. Porte Aperte è composta in gran parte da missionari, cioè da uomini e donne locali, da siriani in Siria, da iracheni in Iraq, uomini e donne che sono perseguitati e che servono i perseguitati perché conoscono bene il territorio, e che portano poi attraverso un'unione, attraverso questa corda, le informazioni fino a qui, fino a noi, rendono possibile questo sentimento e questa realtà di unione. Epafrodito si muove fino lì e persino qui. Porte Aperte è così che fa, e anche in periodi come quello che stiamo vivendo, e soprattutto l'anno scorso, ma anche quest'anno in particolar modo in certi paesi, la pandemia ha creato un'emergenza globale. Ma figuriamoci in quei paesi dove c'è la persecuzione, a cui si è aggiunta anche la pandemia, il Covid, è diventato un elemento scatenante di ulteriore persecuzione e discriminazione nei confronti dei nostri fratelli. Molti di loro si sono autodefiniti gli ultimi della fila, perché a loro non era concesso aiuto, non era concesso la distribuzione dei viveri che venivano fatti per il resto della popolazione. E allora abbiamo chiesto ai nostri amici, ai nostri partner locali, al nostro staff, a coloro che sono parte di Open Doors, di assumersi il rischio di portare questi aiuti che partivano dalla Chiesa italiana e da altre chiese in varie parti del mondo. E come? Rischiando la loro vita. Molti dei nostri staff hanno contratto il Covid o ce l'hanno in questo momento il Covid. Ci sono uomini e donne che oggi sono in terapia intensiva per il servizio, per la causa dei perseguitati, per l'estensione della gloria di Dio nei luoghi più ostili al Vangelo, attraverso il sostegno della Chiesa perseguitata, che è proprio lo scopo per cui esiste questa missione. Ed è proprio come Epafrodito. Anche loro hanno rischiato, le rischiano la vita. Sentite quello che dice Paolo. Per l'opera di Cristo, egli, Epafrodito, è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita. Per cosa? Per Dio, per sostenere, per essere questa corda, per unire. Questo è il mandato di alcuni, perché molti mandano, pochi vanno, ma alcuni sono chiamati ad unire la Chiesa, altrimenti la Chiesa nata dagli operai mandati potrebbe in certe situazioni morire. Rafforza il resto che sta per morire. È un versetto dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 2, da cui prende le mosse la nostra missione. Con questo verso Dio chiamò un giovanissimo fratello Andrea a diventare il fondatore della missione Porte Aperte, il contrabbandiere di Dio. Rafforzare il resto che sta per morire. Con che cosa? Con l'unione, con la comunione. Con questa corda che tiene unita. Paolo parla in questa lettera moltissimo, è uno degli altri argomenti principali, di koinonia, usa questo termine, che è comunione, proprio è uno degli argomenti principali e si riferisce al tenere unito il corpo di Cristo e a tenerlo vivo, perché si scambia nutrienti, perché c'è questo sistema nervoso che lo tiene vivo e in salute. Io credo che una parte del compito anche di Frontiers Italia, che voi conoscete un po', mi sembra, è anche questo, unire, per creare questa coinonia necessaria. E quale sia lo scopo, dunque, di mandare, di andare e unire, tutti noi lo sappiamo. Ma Paolo ci tiene a predicarlo ancora ai Filippesi. È un'ovvietà, ma è un'ovvietà che noi dobbiamo continuare a predicare a noi stessi, e ve lo dico anche all'interno della nostra missione, per non dimenticarci che noi non semplicemente aiutiamo, c'è uno scopo ben più grande e che è ben rappresentato da quella foto che vi mostravo all'inizio, e lo spiega bene Paolo proprio ai Filippesi nel capitolo 2, versetti 10 e 11, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e persino sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Potente. Oggi tu sei chiamato a mandare, sei chiamato ad andare e sei chiamato ad unire, servendo magari in missioni come Porte Aperte o Frontiers Italia. C'è William che viene calato in quella grotta, c'è Andrew e i suoi amici che sostengono quella fune, e poi c'è quella fune che crea questa unione. Oggi puoi essere chiamato ad alimentare questo sistema sanguigno, no? Con i tuoi talenti, magari patrocinando la causa dei non raggiunti qui in Italia e altrove, o perché non si dimentichi mai che ci sono gruppi etnici che ancora non hanno tra loro chi li testimoni di Gesù Cristo, cosa che voi conoscete abbastanza bene. O puoi patrocinare, essere anzi la voce dei nostri fratelli e sorelle che vivono la fede nei luoghi più ostili al Vangelo del mondo, e quindi rafforzare il resto che sta per morire creando questa unione. O puoi patrocinare la causa dei perduti, quindi in qualsiasi paese oltre il tuo, magari perché Dio ti ha messo nel cuore una missione in particolare che si occupa proprio dei perduti in quel paese in particolare. E quindi stando qui e andando a trovarli lì per portare aiuti, incoraggiamento, sostegno e ispirazione. Perché ancora una volta, e concludo, c'è chi manda, c'è chi va e c'è chi è chiamato ad unire. Dio vi benedica, Dio vi sostenga, e grazie per questa opportunità di stare insieme a voi.